Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, chiaramente i temi di carattere economico toccati dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi, incaricato chiaramente Matteo Renzi, per quello che riguarda sia cuneo fiscale, quindi tasse sul lavoro, ma anche le spese della pubblica amministrazione. La correzione, diciamo, su quelle che ha definito alcune forzature di titoli sulle dichiarazioni del sottosegretario Graziano Del Rio, e mi riferisco alla tassazione sui bot per trovare i soldi per ridurre le tasse sul lavoro. Ancora, tutto questo lo affronteremo con un focus, diciamo così, specifico proprio sulle i titoli di Stato, visto che domani il Sole 24 Ore avrà un approfondimento sul risparmio dedicato al titolo di Stato e in generale alla tassazione del risparmio. Speciale bot, tutte le tasse sul risparmio, un inserto di 4 pagine che fornirà appunto le informazioni utili per seguire anche un dibattito e capire che cosa potrebbe cambiare in prospettiva nella gestione dei propri risparmi. Parleremo anche del Monte dei Paschi di Siena, perché oggi c'è un nuovo sviluppo nell'inchiesta, non riguarda il suicidio del responsabile dell'ufficio stampa del Monte dei Paschi di Siena di allora, Rossi, ma riguarda in realtà la truffa al Monte dei Paschi per 47 milioni, la cosiddetta banda del 5%, se vi ricordate. Il fatto che in certe operazioni fate fare al Monte dei Paschi sui derivati, Santorini e Alexandria soprattutto, è emerso che chi questa operazione le proponeva e chi, diciamo, le offriva, chi le proponeva dal punto di vista del Monte dei Paschi e chi poi le offriva come controparte, c'era un accordo per una cresta del 5%, da lì il titolo, la banda del 5%, su ogni operazione significativa prendevano questa percentuale. Beh, c'è un'inchiesta della Procura di Siena per una presunta truffa da 47 milioni di euro ai danni del Monte dei Paschi, che vede indagati, cioè il Monte dei Paschi è vittima in questo caso come soggetto giuridico, vede indagati 11 tra ex funzionari della banca e broker finanziari. Il raggiro sarebbe venuto con movimenti di denaro su conti correnti intestati a società fiduciarie con sede nei paesi offshore. Allora, e su questo fronte abbiamo anche, avremo un approfondimento, perché lo dico? Perché ci sono ancora in corso le perquisizioni ordinate già questa mattina dai PM di Siena. La truffa riguarderebbe 90 milioni di euro, 47 dei quali già sequestrati, in diverse tranche tra gennaio e ottobre 2013. Tra gli altri all'ex capo dell'area finanza Gianluca Baldassarri, al suo vice Alessandro Toccafondi e ai titolari della società Enigma. Tra gli 11 indagati, appunto, oltre Baldassarri e Toccafondi, anche ex funzionari e broker esterni. Hanno già effettuato i magistrati rogatori internazionali nei confronti di San Marino, Svizzera, Gran Bretagna e dell'isola di Vanuatu nell'Oceano Pacifico. E adesso ci sarebbe una nuova rogatoria chiesta anche a Singapore, dove sarebbero state rintracciate almeno parte di queste somme, riconducibili appunto al Monte dei Paschi e ad altri soggetti. L'accusa è associazione transnazionale a delinquere finalizzata la truffa. E i PM avevano già chiesto l'arresto di 8 persone per inquinamento probatorio e pericolo di fuga reale concreto. Matteo Pontone e Maurizio Fabris risultano essere indagati oltre a Baldassarri e Toccafondi, ma avremo maggiori dettagli più avanti, nel giorno in cui invece un avviso di garanzia è stato emesso dalla Procura di Trieste nei confronti di Giovanni Perissinotto, qui andiamo alle generali, e Raffaele Agrusti, rispettivamente ex amministratore delegato ed ex direttore generale di Generali. Viene contestato il provvedimento, è di dicembre, ma viene contestato loro di aver ostacolato l'esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza ed è conseguenza l'indagine delle segnalazioni della Consob da un lato e dell'IVAS che è l'ex ISVAP, quindi l'autorità di vigilanza sul mondo assicurativo. Avremo anche alcuni dei passaggi dell'intervista fatta oggi da Giovanni Minoli nel corso di Mix 24 a Diego Della Valle, che diciamo non ha lesinato critica alla gestione del gruppo Rizzoli Corriere della Sera e anche al gruppo Fiat. Ricorderete lo scontro con Jonathan Cahn come ultimo capitolo di una vicenda che vede Della Valle, azionista del gruppo Rizzoli Corriere della Sera, molto molto critico nei confronti della gestione attuale e dei manager attuali. 349-238-6666 per i vostri sms e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Partiamo, anzi vi do subito la borsa, più 0,20% Milano in linea con Francoforte, Parigi più 0,60, Londra più 0,12, l'America più 0,90%, euro sempre molto forte vicino a quota 1,38. Tra i titoli segnalo Ferragamo più 2%, Banco Popolare più 1,70, Intesa più 1,5, Ansaldo più 1,30, Luxottica più 1 e Unicredito più 1 anch'essa. Mentre tra chi perde, poca roba devo dire, Exor l'1,40%, World Duty Free l'1% come Autogrill e Fiat, Unipolsai meno 0,90 come Atlantia. Le altre notizie in breve. Allora, giustamente alcuni ascoltatori dicono: ma perché lei ha detto premier incaricato? Ha già giurato, è vero che ha giurato, insomma. Però tecnicamente non è più incaricato. Ho detto incaricato per dire che manca ancora la fiducia al Senato, soprattutto quella più delicata, e poi alla Camera. Comunque, assolutamente, il giuramento c'è stato, l'abbiamo trasmesso anche in diretta da questi microfoni, ma arriveremo al di là delle definizioni nel dettaglio di quanto oggi proposto da Matteo Renzi. A questo proposito arrivo subito, anzi diamo oggi un bel gufo, è un po' che il gufo non lo davamo, perché oggi dalla Germania il consulente principale della Deutsche Bank dice, lui si chiama Thomas Meyer e ha pubblicato un articolo sull'Handelsblatt, che è un po' il Sole 24 Ore in Germania, anche se vende meno copie del Sole, mi sembra. Però dicevo, ha pubblicato un articolo tutto dedicato al nuovo governo italiano e Thomas Meyer dice: il futuro dell'euro si decide in Italia, le strutture del paese sono tradizionalmente nemiche dell'economia e fin qua ha ragione, e lo Stato non è capace di funzionare e fin qua non c'è notizia. Però poi continua Meyer: ecco perché guardo con scetticismo al piano di riforme di Matteo Renzi, la situazione economica è complessivamente drammatica, scrive l'Handelsblatt, i problemi maggiori sono l'enorme indebitamento pubblico e la debolezza della crescita. Allora, caro Meyer, Thomas Meyer, la situazione economica è complessivamente drammatica grazie anche alle politiche adottate dall'Europa su spinta della Germania, perché l'Italia ha sicuramente una burocrazia che non funziona e che è oppressiva e anti-impresa, e una pubblica amministrazione che è inefficiente, oltre che avere dei dirigenti che hanno troppo potere e troppi soldi nello come stipendio. Però non è che la situazione economica italiana, cioè che il crollo della domanda interna, non sia riconducibile anche alle politiche assurde, a mio avviso, che ha voluto la Germania in questi anni, solo di tagli di tasse. E poi, se permette, io non ho nessun motivo per non ho nessuna prevenzione neanche adulazione nei confronti di Matteo Renzi, ma è appena arrivato e già dire che non funzionerà il governo Renzi, cosa dobbiamo fare? No, io quello che faccio le do un bel gufo, così non so come si dica in tedesco gufo, se qualcuno me lo vuole dire glielo diremo anche in tedesco, e poi andiamo avanti. Oggi il numero uno della Bundesbank, Hans Weidmann, della banca centrale tedesca, dice qui veramente che nei paesi colpiti dalla crisi dell'euro, quindi immagino Grecia, Spagna, Portogallo, Italia, ci sono segni di miglioramento strutturale. e li ha visti solo lui. Gli ultimi dati economici mostrano un rasserenamento della situazione congiunturale. Quindi le riforme degli anni passati funzionano, anche se sull'indebitamento resta ancora molto da fare. Ma guardi, che ci sia un miglioramento della congiuntura a livello economico lo vediamo tutti e vale per tutti i paesi. Ma come fa a dire, caro Widmann, che questo è merito delle riforme degli anni passati? A me sembra che concentrarsi solo sull'indebitamento e sul deficit abbia creato nell'area euro, in alcuni paesi dell'area euro, unici al mondo, la seconda recessione dopo quella del 2009, mentre gli altri si riprendevano. Quindi, insomma, tutta questa sicurezza. Ma poi ci spieghi perché. Perché lei ritiene che le riforme degli anni passati siano il motivo per cui sta migliorando tutta l'economia a livello mondiale e migliorerà anche quella dei paesi dell'area euro, seppur di molto poco per alcuni paesi. Per cui non veramente mi sfugge, anche perché oggi i rappresentanti della Troica, quindi l'Unione Europea, la Banca Centrale Europea e il Fondo Monetario Internazionale, sono tornati ad Atene per la prima volta in due mesi per un'altra verifica del programma di salvataggio. Ma si è verificato uno scontro con il governo di Atene sulla ricapitalizzazione delle banche greche. Secondo il governo di Atene, infatti, le banche necessiterebbero di meno di 6 miliardi di euro di capitali freschi, mentre la Troica vorrebbe 20 miliardi di euro. E non è una piccola differenza. 10 eule, il gufo, mi sembra che mi scrivono, si dice Skyse, mi dicono alcuni altri. Insomma, mettetevi d'accordo su come si dice gufo in tedesco. Detto ciò, andiamo avanti con Renzi. Due notizie ancora dall'estero. In Ucraina invece, dopo diciamo la fuga dell'ormai ex presidente, questo si può dire, Viktor Yanukovych, la borsa di Kiev oggi è in netta ripresa, più 10,50%, il rialzo più forte da 18 mesi, e questo nonostante il governo ad interim abbia avvertito di aver bisogno di 35 miliardi di dollari per evitare la bancarotta. Sono in calo anche i rendimenti sui titoli di Stato ucraini, a segnalare che la situazione si sta leggermente tranquillizzando, al 9,36%. Speriamo non gli arrivi la Troica, se no a mio avviso se arriva la Troica anche in Ucraina, no, non ci può arrivare, non fa parte dell'euro, però insomma secondo me chi era a favore dell'Europa lì rischia di rivedere le sue posizioni. Italia, dicevo, il discorso al Senato per la fiducia del Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Sì, l'abbiamo mandato in diretta lungo tutto il suo intervento al Senato, che questa sia la legislatura di svolta per il futuro, si è augurato Renzi, prepariamoci a guidare politicamente l'Europa. Sull'Europa, devo dire, c'è un passaggio che a me convince abbastanza, mentre in questo momento vedo le immagini di Franco Carraro che sta parlando al Senato con dietro il mitico senatore Razzi, quello esaltato da Crozza, vabbè. Dicevo, Renzi ha detto: liberiamoci dall'idea di un'Europa matrigna, da questa subalternità culturale, possiamo affrancarci solo noi. Non possiamo immaginare che qualcun altro risolva i nostri problemi. È vero, l'abbiamo detto modestamente anche noi nei giorni scorsi, vi è stato un atteggiamento di subalternità culturale da parte degli ultimi tre governi nei confronti dell'Europa, per vari motivi, non posso ripercorrere l'ultima fase del governo Berlusconi, Tremonti, il governo Monti e il governo Renzi, ma il dato di fatto è che abbiamo sempre avuto molto timore di andare in Europa a chiedere determinate cose, e quindi a mio avviso si può parlare di subalternità culturale. E poi continua Renzi: mentre qualcuno si divertiva il PIL ha perso punti, la disoccupazione giovanile è aumentata, la disoccupazione è passata dal 6,7 al 12,6%, questi non sono numeri di una crisi, sono numeri di un tracollo, occorre ridurre di due cifre il cuneo fiscale, quindi le tasse sul lavoro, che vuol dire almeno del 10%, se le due cifre non includono anche i decimali. E come farlo? Beh, non solo, ma anche legandolo alla revisione della spesa pubblica, che porterà già nel semestre 2014 risultati immediati. L'impegno del governo è lo sblocco totale dei debiti che la pubblica amministrazione ha nei confronti delle imprese attraverso un diverso utilizzo della cassa, depositi e prestiti. E poi il secondo impegno sarà la costituzione e il sostegno di fondi di garanzia anche attraverso un rinnovato utilizzo di nuovo della cassa, depositi e prestiti. Il primo elemento su cui prendiamo un impegno è lo sblocco totale, non parziale, totale dei debiti della pubblica amministrazione attraverso un diverso utilizzo della cassa, depositi e prestiti. Il secondo elemento che mettiamo immediatamente all'ordine del giorno è la costituzione e il sostegno di fondi di garanzia anche attraverso un rinnovato utilizzo di nuovo non soltanto della cassa depositi e prestiti, dell'unica reale, importante, fondamentale questione che noi abbiamo sul tappeto, che è quello delle piccole e medie imprese che non riescono ad accedere al credito. Il terzo punto che noi poniamo immediatamente alla vostra attenzione, lo porremo nelle prossime settimane, è una riduzione a doppia cifra del cuneo fiscale attraverso misure serie, irreversibili, legate non soltanto alla revisione della spesa, che porterà nel corso dei primi mesi del primo semestre del 2014 a vedere dei risultati immediati e concreti. E poi la correzione, ha detto Renzi, in realtà i titoli sulle dichiarazioni di Del Rio, di Graziano Del Rio, il sottosegretario, sulla tassazione dei bot sono stati un po' forzati. Del Rio ha detto una cosa semplice, che il tema delle transazioni sulle rente finanziarie e il tema dei denari sulla riforma del lavoro saranno oggetto di una valutazione. Ieri le agenzie avevano titolato «Valuteremo la tassazione di certe rendite finanziarie» e tutti si erano concentrati anche sui bot. Però facciamo una cosa, sentiamo anche il Del Rio di ieri e poi dopo vi faremo ascoltare la replica di Renzi. Le rendite finanziarie sono rendite, una signora anziana che ha 100.000 euro di bot a cui che gli rendono magari un tot di soldi, a cui si toglie 25, 30, 50 euro in più, non credo che abbia un problema di salute, diciamo, ecco. Certamente c'è una parte delle rendite finanziarie che non è in linea con la tassazione che vi è in Europa. Quindi questo argomento per portare più soldi nelle fasce più deboli forse va valutato. E allora, dopo la non è una smentita, è una correzione che ha dato Renzi, soprattutto alle agenzie. Faccio anche notare che anche il direttore del generale del Tesoro, Maria Cannata, ha detto che un aumento della tassazione sui titoli di Stato avrebbe un impatto sui piccoli risparmiatori, mentre gli effetti sarebbero modesti sul fronte del gettito. E poi ci arriveremo nella seconda ora del programma. Un'ultima notizia, la Federmeccanica oggi fotografa la produzione metalmeccanica nel 2013, un calo del 2,7%, ma la cosa impressionante è che in 5 anni, da quando è scoppiata la crisi, la produzione meccanica italiana, che è uno dei pilastri assieme all'agroalimentare e poi al mobilio arredo del nostro Made in Italy, beh, la produzione metalmeccanica è calata del 30% in 5 anni, vuol dire che è come se avesse chiuso un'azienda metalmeccanica su 3. Sentiamo al microfono il nostro Vincenzo Minetta Stefano Franchi, che è il nuovo direttore generale di Federmeccanica. Segnali di ripresa di una timidissima ripresa rispetto al trimestre precedente. Notiamo una ripresa, come dire, da prefisso telefonico. Invece quello che ci terrei a evidenziare è la distanza ancora notevole rispetto alla situazione pre-crisi. L'industria metalmeccanica ha perso circa il 30% della produzione industriale e, cosa ancora più seria, ha perso circa un quarto della capacità produttiva, vale a dire della capacità di produrre anche laddove tornassero esigenze di produzione. Questo è un dato molto, molto significativo, è un dato importante che ci fa capire quanto la grande recessione che ha colpito l'Italia in questi anni abbia creato un solco profondo tra il prima e il dopo. Quindi queste timide riprese da prefisso telefonico non ci consentono ancora oggi di dire siamo veramente fuori dal tunnel. Incominciamo a vedere un po' la luce, ma tanto deve ancora essere fatto. In queste ore sta nascendo un nuovo governo, potremmo dire l'ennesimo, almeno nel tempo recente del nostro paese. Si sente di dare un consiglio proprio per tornare quantomeno ad avvicinarsi a quei numeri pre-crisi? Vede, in questi anni ha retto l'export, e grazie all'export, parlo del nostro settore, abbiamo potuto leggermente compensare, anche se i numeri sono quelli che vi ho detto, leggermente compensare il calo della domanda interna, ma senza domanda interna la produzione e un paese non può sopravvivere. Quindi lo stimolo e il consiglio è quello di investire sulla domanda interna, investire sui consumi e quindi sul credito per le piccole imprese e quindi sul cuneo fiscale, sul costo del lavoro, sul CLUP, costo del lavoro per unità di prodotto. Quindi questi sono tutti interventi che possono consentire un recupero della domanda interna, perché senza domanda interna il solo export non può sostenere la ripresa. Quindi il consiglio è quello di investire su questo, di adottare tutte quelle misure che vanno, come dicevo, dal costo del lavoro fino al credito, al sostegno del credito per le piccole imprese, perché si possa recuperare sulla domanda interna. (349) 238 6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Andiamo con la pubblicità, poi ascoltiamo anche queste dichiarazioni oggi di Della Valle, molto, molto soft, molto morbide nei confronti sia degli Agnelli che del gruppo Rizzoli Corriere della Sera, poi la borsa, la vicenda Monte dei Paschi e tutto il tema, diciamo, dei passaggi di iniziativa economica, di politica economica nell'intervento di Matteo Renzi al Senato. Allora, 17:38 minuti, c'è chi mi scrive e dice Barisoni non l'ho mai sentita così appiattito, che delusione. Allora, per essere appiattiti occorre avere qualcosa su cui appiattirsi, mettiamola così. Io non sono né appiattito né indignato, cioè ci sono dichiarazioni di intenti di Matteo Renzi, deve prendersi la fiducia al Senato, quella alla Camera dovrebbe essere più facile, vedremo quando ci sarà un progetto. Io non posso però, l'abbiamo criticata più volte, ma insomma la politica degli annunci è stata una delle cose più deleterie degli ultimi governi. Annunci, annunci, discussione, e poi i decreti attuativi non arrivavano, tutto si bloccava. Allora, vediamo tre mesi, vediamo che tipo di riforme butterà fuori sul mercato del lavoro, sulla pubblica amministrazione inteso come efficienza della pubblica amministrazione e soprattutto sulla burocrazia. Vediamo dove andrà a reperire effettivamente le risorse e poi faremo i nostri commenti, diremo buono, ci può stare, come dicono i ragazzi adesso, oppure no. Ma questa linea è una linea più fattuale di controllo dei fatti. Vediamo, appena arriverà una proposta, no, di legge, un disegno di legge su iniziativa governativa che dirà noi vogliamo rimodulare le rente finanziarie oppure decidiamo che il mercato del lavoro vada cambiato così. C'era il Jobs Act che prevedeva, che poi sarebbe Job Act, comunque prevedeva un contratto via via più rigido, più uno era stava dentro il posto di lavoro. Vediamo se passerà questo. Adesso è difficile appiattirsi o irrigidirsi o innalzarsi, inalberarsi se ancora non c'è una proposta di legge. invece non ha problemi a inalberarsi, mettiamola così, o non le manda certo a dire, è Diego Della Valle, oggi ospite nelle classiche interviste che Giovanni Minoli fa, il faccia a faccia in questa radio, il lunedì e il venerdì. Beh, Della Valle, diciamo, sulla gestione del gruppo Rizzoli Corriere della Sera ha usato tutto un insieme di eufemismi e francesismi. Per me esiste che questa azienda ha bisogno di cambiare in fretta e ho l'impressione che anche... Ma cambiare in fretta? Che significa? Avere un editore puro? Cambiare in fretta? Beh, intanto di editori puro nel Corriere ce n'è uno che si chiama Cairo. Ah, vabbè, e Cairo. Io sarei dell'avviso, se lui se la sente, di dargli la delega nel gestire l'azienda. Senta. E non capisco perché gli altri non lo facciano. Ah. E poi bisogna prendere atto punto. Che c'è un amministratore delegato assolutamente inadeguato. E quindi Cairo dovrebbe gestire la Rizzoli Corriere della Sera e l'amministratore attuale Pietro Scott Iovane è assolutamente inadeguato. Poi si è spostato sul fronte Fiat e anche qui, diciamo, fiori, rose e petali. Tirando le somme oggi molto più male, soprattutto in considerazione di quello che l'Italia ha fatto per loro. Assolutamente. Io non ho un match con gli Acchi, l'ho detto 50.000 volte a chiunque, anche perché generazionalmente siamo diversi, lo conosco fin da bambino. Io ho un match con quello che la famiglia Agnelli ha rappresentato nel paese e come è stata mal raccontato quello che la famiglia ha fatto a questo paese. Ne parliamo, questo ha fatto dei guai e io credo che oggi sia il momento di raccontare. Ecco, ma lo scontro è sull'ipotesi di fusione con Corriere Stampa oppure più complessivo? No, non ci sono scontri di questo tipo. Io sono un azionista di quel giornale. Oggi, dato che sicuramente è chiaro a tutti che quella non è un'operazione economicamente interessante, non voglio che il giornale finisca in mano a persone che sono abituate a trattare la stampa come merce di scambio con il potere. E anche qui, diciamo, sono salame lecchi. Detto questo, adesso arriviamo alla borsa. Ripeto a chi mi scrive in maniera opposta: non siamo né contro né a favore di questo governo, vogliamo valutarlo sui fatti. Troppe volte abbiamo sentito fare promesse, la legislazione per le imprese, la riduzione della burocrazia, la riduzione del cuneo fiscale. Allora, vediamo se sarà la volta buona, saremo i primi a festeggiare, perché festeggia il paese, non festeggia la fazione X o Y. Se non ce la farà, saremo i primi a denunciarlo. Io mi sposterei però sul Monte dei Paschi di Siena adesso, visto che ci avviciniamo a una pagina di borsa, perché allora il titolo, la vicenda riguarda la precedente gestione del Monte dei Paschi di Siena, per cui il titolo oggi ha fatto 0,00, per cui più invariato di così non si può. Ma ci sono sviluppi, perché questa mattina i PM di Siena hanno ordinato perquisizioni nell'ambito del filone sulla cosiddetta banda del 5%, perché la truffa nei confronti della banca senese e di altri soggetti riguarderebbe circa 90 milioni di euro, 47 dei quali già sequestrati in diverse tranche tra gennaio e ottobre 2013, e riguarderebbe tra gli altri l'ex capo area finanza Gianluca Baldassarri, il suo vice Alessandro Toccafondi, i titolari della società Enigma, ma anche altre 8 persone, oltre a Baldassarri e Toccafondi, anche Matteo Pontone e Maurizio Fabris. Le indagini partirono dalla famosa cresta del 5% che, secondo l'accusa, Baldassarri e gli altri avrebbero preteso da quanti volevano fare affari con Monte dei Paschi, che è a questo punto parte lesa la banca. I proventi sarebbero stati quasi tutti trasferiti all'estero, in particolare in alcuni paradisi fiscali. Sara Monaci sta seguendo la vicenda per noi. Sara, buonasera. Sì, buonasera. E questa è il filone, diciamo, che riguarda anche l'operazione di Santorini e Alexandria, come, diciamo, aspetto. Allora, riguarderebbe una serie di prodotti derivati, sì, e strutturati, e in parte potrebbero anche avere a che fare proprio con Santorini e con Alexandria, cioè ricordo i due prodotti derivati che sono sotto l'occhio degli inquirenti per aver causato dei buchi in bilancio e e tuttavia affiorano anche in questo filone d'inchiesta. Questo filone d'inchiesta però riguarderebbe un'abitudine che alcuni ex manager e anche broker di alcune società avrebbero da molti anni, quindi almeno una decina. Sarebbero stati raccolti dei fondi illeciti gonfiando delle commissioni e quindi facendo delle triangolazioni con i paesi offshore. Questa è un'abitudine che alcuni manager avevano già sostanzialmente curato e approfondito anche in altre banche. Queste sono le indiscrezioni. MPS è parte lesa, ma potrebbe essere uno degli istituti bancari tra le varie parte lese, per cui MPS, cioè il fatto che il manager si mettesse d'accordo con chi questi prodotti finanziari doveva offrirglieli per avere un 5%. Però attenzione, qui il problema è capire, se ho ben visto, non solo la cresta, diciamo, fatta su questa operazione, ma anche che alcune operazioni non venissero create o effettuate apposta per avere il 5%. Non so. Certo, perché ci sono degli artifici, ma stanno venendo ora nelle varie ambienti degli inquirenti del nucleo valutario, della Guardia di Finanza, e in generale gli inquirenti stanno mettendo gli occhi su dei prodotti che sostanzialmente non servivano a nulla. Sì. Ma fatti passare come necessari. Solo per intascare la tangente. Allora Sara, la comunicazione è un po' disturbata, lancio il traffico e poi ti riprendiamo, perché vorrei capire se i nomi emersi, visto che io ho citato appunto Baldassarri, Toccafondi, però sono 11, se ho ben visto, gli indagati, e vorrei sapere se sono emersi anche altri nomi, visto che i magistrati hanno già effettuato le rogatorie internazionali nei confronti di San Marino, Svizzera, Gran Bretagna, l'isola di Vanuatu nell'Oceano Pacifico, per vedere dove sono finiti questi soldi. Adesso sarebbero per effettuarla anche a Singapore, dove sarebbero state rintracciate delle somme. Allora, Sara Monaci, sono usciti altri nomi oltre a quelli che citavo? Sì, ci sono. Fondamentalmente, allora, ti confermo che i nomi sono quelli già noti da mesi, perché sottolineo, come prima hai fatto, che l'inchiesta era già iniziata un anno fa. Sì. Compare nella lista degli indagati dei nomi nuovi. Vedo Agnese Marchesini, Giorgio Filippetti e Italia Sinopoli. Sono nomi, questi tre, che non erano ancora emersi nella lista degli avvisi di garanzia. Il resto sono confermati: Baldassarri, Toccafondi, quindi ricordo l'ex capo dell'area finanziaria di MPS, il suo vice Alessandro Toccafondi, Antonio Pantalena. Questi sono i nomi principali degli ex dipendenti del Monte dei Paschi. E poi di nuovo la lista prosegue con i cosiddetti broker, broker in particolare della società Enigma, di cui avevamo già parlato mesi fa, una società che ha sede, oltre che a Milano, anche a Malta e a Londra. E poi compaiono dei nomi di alcune società di cui avevamo scritto sotto forma di indiscrezione. Adesso vengono confermati dai nuovi documenti che escono dalla Procura, e sono ad esempio la Rockport, che credo abbia sede in uno dei paradisi fiscali offshore, ma anche a Londra. Esistono una serie di società create proprio apposta per poter spostare dei fondi utilizzando la triangolazione con dei paradisi fiscali europei, perché in prima battuta i soldi vengono portati a San Marino, nell'Liechtenstein o in Svizzera, questo almeno i posti che abbiamo visto in questa inchiesta, e poi da lì vengono portati fuori. Per farli rientrare si portano generalmente, riutilizzando queste sorte di paradisi fiscali tollerati, passiamo il termine, con ciuffi di virgolette, e da cui poi eventualmente vengono fatti rientrare in qualche modo sotto mentite spoglie, con dei nomi falsi per chi ne ha bisogno in Italia. Queste sono un po' le triangolazioni. Qui si parlava di Panama, delle Bahamas, quindi i classici luoghi di paradisi fiscali. Beh, sì, certo che fidarsi a una società che si chiama Enigma, no? Già nome. Dimmi l'ultima cosa invece, che è vero che in settimana potrebbe arrivare qualche novità anche su un altro filone invece, che riguarda le inchieste su Monte dei Paschi, e mi riferisco, ahimè, al suicidio del capo ufficio stampa Rossi, Davide Rossi. Sì. Ecco, quello che ad oggi ci risulta è che in settimana dovrebbero sciogliere la riserva sul prolungamento di indagine che era stata chiesta dagli avvocati. Ricordo che i PM avevano chiesto l'archiviazione, mentre gli avvocati della famiglia avevano chiesto di non archiviarla. È possibile che si vada verso un prolungamento delle indagini per capire quali furono le motivazioni di questa tragedia? Staremo a vedere e casomai ci risentiremo. Grazie a Sara Monaci del Sole 24 Ore. No, beh, te credo che poi spesso Monte dei Paschi comprava o prodotti troppo rischiosi, vedi il caso di Alexandria e Santorini che hanno creato perdite da centinaia di milioni, o prodotti inutili. E quando c'è la mazzetta del 5%? Hai capito? Già ci sembrò strano che uno come Baldassarri, con pure un buono stipendio perché era capo della finanza, potesse avere decine di milioni di euro in Svizzera, ma che erano i risparmi di una vita? È la miseria. La borsa oggi la faccio io, Ferragamo più 2,22%, Banco Popolare più 1,90, Intesa San Paolo più 1,80, Ansaldo CTS più 1,40, Luxottica più 1,30, come Unicredit, Buzzi Unicem più 0,90 e Enel Green Power più 0,70%. Ferragamo risente positivamente, come avete appena sentito, delle dichiarazioni più che ottimistiche dell'amministratore delegato Michele Norsa sul 2014. Ansaldo STS e Finmeccanica, ma soprattutto Ansaldo STS, continuano a crescere sull'ipotesi della cessione, in questo caso il possibile interesse di un gruppo cinese sia per Ansaldo Breda che per STS, che ripeto il numero uno Pans, nostro ospite due settimane fa, ha confermato voler vendere. Ancora in calo invece oggi, Autogrill meno 1%, ma anche Atlantia, lì c'è un consiglio a vendere da parte di chi fornisce il report, e poi A2A ritraccia ma era arrivata ai massimi, meno 0,33%. Bene oggi invece in borsa anche Saras, e tra i migliori e peggiori Tiscali 25,50%, Mondo TV più 19%, Banca Profilo più 15%, Ciccolella più 9,30%, Valore Italia AXA meno 8,33%, Sol meno 2,50%. Le altre borse, Parigi più 0,50, scusatemi, Francoforte più 0,50, Parigi più 0,80, Londra più 0,40, l'America continua il progresso che ha aiutato anche la borsa di Milano, soprattutto sui bancari, guadagna adesso l'1,16%, l'ex numero 1 della Federal Reserve Alan Greenspan oggi ha detto che non esistono bolle sui mercati. Renzi, adesso inizia una lunga pagina sulle note di politica economica. Ripeto, è inutile essere scettici o essere entusiasti. Guardiamo i fatti e sì, ha ragione un ascoltatore che dice i risparmi di una vita degli altri, riferendosi a Baldassarri. Comunque, guardiamo i fatti, cerchiamo di capire quale sarà l'orientamento. È ovvio che i soldi da qualche parte li devi trovare ed è ovvio che alcune indicazioni sono già arrivate. Ho già ricordato la immediata riduzione da due cifre del cuneo fiscale, misure serie e irreversibili che porteranno risultati immediati. Sblocco totale dei debiti della pubblica amministrazione, il primo impegno, e poi il fondo di garanzia per accesso alle piccole e medie imprese, oltre che l'utilizzo della cassa, deposito e prestiti per pagare le imprese che vantano crediti con la pubblica amministrazione. Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Eccomi, buonasera. Ti chiedo un cappello di un minuto, poi ascolteremo i vari passaggi sulla parte di politica economica, l'intervento di Renzi. Anzi, 30 secondi, un titolo. Il titolo è Renzi ha fatto Renzi, quindi non poteva fare diversamente, ed è giusto che sia così. Lo ha fatto fino in fondo, quindi ha fatto un discorso non scontato, non analitico come era nelle sue corde. E non ha dato cifre, ma ha dato almeno due o tre, per quanto riguarda la politica economica, due o tre obiettivi molto molto chiari. Dopodiché poi le risorse dovranno indicarle, lavoreranno lui e il ministro dell'economia Padoan, e ci diranno come trovano i soldi. Però è un fatto che ha detto due o tre cose molto importanti, secondo me. 18:08, riprende Focus Economia con voi Sebastiano Berisoni. Allora analizziamo alcuni dei punti principali dell'intervento di Matteo Renzi al Senato per poi concentrarci sulla tassazione delle rendite finanziarie. Le priorità è quindi riduzione del cuneo fiscale a due cifre, che spero non tenga conto dei decimali, quindi sia oltre dal 10% in su. Misure serie irreversibili che porteranno risultati immediati. E poi sblocco totale dei debiti della pubblica amministrazione è il primo impegno, come utilizzando in maniera diversa la cassa depositi e prestiti, e anche qui la stessa cassa depositi e prestiti da utilizzarsi per i fondi di garanzia per accesso al credito delle piccole e medie imprese. Allora, le priorità in campo economico. Il primo elemento su cui prendiamo un impegno è lo sblocco totale, non parziale, totale dei debiti della pubblica amministrazione attraverso un diverso utilizzo della cassa depositi e prestiti. Il secondo elemento che mettiamo immediatamente all'ordine del giorno è la costituzione e il sostegno di fondi di garanzia anche attraverso un rinnovato utilizzo di nuovo non soltanto della cassa depositi e prestiti, dell'unica reale, importante, fondamentale questione che noi abbiamo sul tappeto, che è quello delle piccole e medie imprese che non riescono ad accedere al credito. Il terzo punto che noi poniamo immediatamente alla vostra attenzione, la porremo nelle prossime settimane, è una riduzione a doppia cifra del cuneo fiscale attraverso misure serie, irreversibili, legate non soltanto alla revisione della spesa, che porterà nel corso dei primi mesi del primo semestre del 2014 a vedere dei risultati immediati e concreti. Allora, Guido Gentili, noi analizzeremo i fatti, lo spiego ancora una volta, non c'è da essere né contro Renzi né a favore di Renzi, vediamo se poi a questi annunci seguiranno le misure e soprattutto i decreti attuativi. Questa è la linea del Sole 24 Ore, quindi anche di Radio 24, che va a valutare i fatti, le cifre, i numeri, non il dibattito in senso lato. Però la cassa depositi e prestiti, Guido, insomma, è piena dei risparmi postali degli italiani. Sì, il riferimento secondo me non è casuale, perché già nel 2012, ai tempi del governo Monti, si parlò dell'utilizzo della cassa depositi e prestiti proprio per sbloccare il problema dei debiti bloccati dalla pubblica amministrazione. E un po' sull'esempio della Spagna, che aveva fatto un'operazione del genere con grande successo, in pochi mesi era riuscito a mandare in porto l'operazione. Credo che si riferisca a a un'esperienza di questo tipo, quindi al modello spagnolo di uso della cassa depositi e prestiti, che ha consentito di fare questo lavoro che ai tempi invece del governo Monti non, come sappiamo, non fu possibile, e lo sblocco parziale è cominciato ad arrivare con il governo Letta. Quindi questo credo che sia il primo punto. Mi pare importante che abbia scandito varie volte lo sblocco totale. Totale, sì. Ecco, che quindi abbia usato la parola irreversibile quando ha parlato Renzi di riduzione del cuneo fiscale. Quindi ha usato due parole, totale e irreversibile, che danno, almeno danno l'impressione, danno di una svolta vera. Poi che ovviamente va verificata nei fatti, perché poi da dirlo al farlo ovviamente non è la stessa cosa. Però per la prima volta sentiamo un Presidente del Consiglio, almeno in questi ultimi anni, che a proposito di due spezzoni della manovra di politica economica importante per questo Paese, usa degli aggettivi totale e irreversibile, che quindi lasciano pensare che non ci sia spazio per proroghe, rinvii, mezzi passi avanti, mezzi passi indietro, insomma, quindi dall'idea almeno, diciamo, trasmette l'idea di una svolta, ecco. Sì, su questo vale la pena ricordare che il governo Letta aveva sbloccato 20 miliardi, che è arrivato un importante appoggio da Bruxelles, dicendo che questi pagamenti non sarebbero entrati nel calcolo del deficit, perché erano somme che comunque il governo doveva, lo Stato doveva alle imprese, e che però le ultime dichiarazioni del governo Letta stimavano in massimo 50 miliardi il totale da rimborsare alle imprese che aspettavano come manovra complessiva. Se Renzi dice invece tutti, la totalità dei debiti che la pubblica amministrazione vanta nei confronti delle imprese, la stima lì è sui 90 miliardi in tutto, di cui insomma 15-18 già ritornati. Ne manca, no, addirittura può anche essere superiore, sì, perché c'erano delle cifre che erano anche a 120-140 miliardi. No, ma infatti già uno Stato che non sa quanto deve ai suoi cittadini è interessante come caso, diciamo, di scuola. Detto ciò, e per quello che riguarda invece altre iniziative di carattere economico, allora Renzi è intervenuto anche sulla riforma della burocrazia, ha detto: è arrivato il momento di dire con forza che la politica deve affidare tempi certi anche ai dirigenti, non esiste tempo indeterminato, con i governi che passano i dirigenti restano e fanno il bello e cattivo tempo, ogni centesimo speso dalla pubblica amministrazione deve essere tracciabile online, così il cittadino può verificare cosa fa chi lo rappresenta. Credo che sia arrivato il momento di dire con forza che una politica forte è quella che affida dei tempi certi anche al ruolo dei dirigenti, e che non può esistere, fermi salvi diritti acquisiti, la possibilità di un dirigente che rimane a tempo indeterminato e che è il depositario del bello, che fa il bello e il cattivo tempo. Noi non siamo per sottrarre responsabilità ai dirigenti, siamo per darle tutte. Noi vorremmo che la parola accountability trovasse una traduzione in italiano, perché ci sono le responsabilità erariali, ci sono le responsabilità penali, quelle civili, però non c'è una responsabilità da mancato raggiungimento degli obiettivi, c'è soltanto a livello teorico. Ma questa sfida è una sfida di buonsenso, che nell'arco di 4 anni può essere vinta e affrontata se partiamo subito. E se abbiamo il coraggio anche, lasciatemelo dire, di far emergere in modo netto, chiaro, evidente, che ogni centesimo speso dalla pubblica amministrazione debba essere visibile online da parte di tutti. Questo significa non semplicemente il Freedom of Information Act, ma un meccanismo di rivoluzione nel rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, per cui il cittadino può verificare giorno dopo giorno ogni gesto che fa il proprio rappresentante. Allora, dico subito, secondo me questo forse è lo scoglio più importante per capire, diciamo, l'incisività del governo. Non che il cuneo fiscale non sia importantissimo, vuol dire ridurre le tasse in busta paga agli italiani, non che la riforma del mercato del lavoro non sia importante, però per capire se c'è un vento nuovo, Guido, vedere se cambieranno i dirigenti dei ministeri, soprattutto quelli più importanti che restano lì, e noi abbiamo accusato nel passato di essere i veri, diciamo, mandarini, mi passa il termine, della burocrazia italiana. Sono molto pagati e vedono nel rimpallo continuo di questa burocrazia la ragione stessa della loro esistenza, dalle volte. Ecco, secondo me quella potrebbe essere, non so cosa ne pensa Guido Gentili, la cartina tornasole per capire se veramente è arrivata una ventata nuova nella politica italiana oppure no, perché sappiamo che pesano più certi dirigenti di certi ministri. Certamente, questo è, diciamo, la terza punta del tridente di cui abbiamo parlato, cioè lo sblocco dei crediti della pubblica amministrazione, la riduzione del cuneo fiscale e lo sblocco della macchina burocratica, con un chiaro riferimento sia dal lato, diciamo, della spesa, perché aver detto comunque che ogni centesimo di spesa della pubblica amministrazione deve essere visibile online da parte di tutti i cittadini, credo che sia, diciamo, un'affermazione comunque importante, anche questa da vedere nei fatti, perché poi anche a livello locale noi sappiamo che proprio anche nei comuni ci sono molti sindaci che non mettono, diciamo così, non è così automatica, certo, la visibilità della pubblica amministrazione anche a livello locale, quindi è una sfida importante che detta da Renzi, l'ex sindaco di Firenze, diciamo, assume una valenza doppia da questo punto di vista. E poi c'è questo dato che effettivamente io credo che l'opinione pubblica sappia ormai, conosca bene questo meccanismo per cui i governi passano e i burocrati rimangono. Questo è un dato traggono alimento, non tutti per carità, proprio da questa burocrazia trae alimento la loro resistenza. Una burocrazia più semplice, lo dico molto chiaramente, vedrebbe scomparire il potere, non dico il ruolo, ma il potere di alcuni dirigenti, il rimpallo continuo da un ministero all'altro, l'abbiamo raccontato decine di volte. Dimmi un'ultima cosa prima di arrivare quindi alla penultima cosa prima di arrivare all'ultimo tema. Questo vuol dire che anche i vertici delle partecipate a maggio scadono, Eni, Enel, ma non solo, ci sono anche le Poste, insomma, verranno ricambiati. Cioè, l'indicazione sembra questa. A me sembra che sia un messaggio nel senso di un rinnovamento totale. Mi sbaglierò, però insomma l'idea del tono del discorso di oggi fa prefigurare uno scenario da ricambio totale, diciamo, e questo credo che sia anche questo un messaggio abbastanza chiaro. Allora, il traffico e poi quello che è sembrato a molti il primo scivolone del nuovo governo, e tu sai a cosa mi riferisco, le dichiarazioni di Del Rio. Oggi Renzi ha detto che erano state un po' forzati i titoli su una tassazione delle rente finanziarie, anche perché il Sole 24 Ore domani esce con 4 pagine proprio su questo, ma a mio avviso la cosa più interessante è quanto ha detto oggi il direttore generale del Tesoro, la Maria Cannata, che ha detto: attenzione, porterebbe poco gettito. Allora, l'analisi politica Guido Gentili e invece quella, diciamo, di finanza e risparmio a Moria Longo, che ci ha raggiunto in studio. Parte di Focus Economia. Allora, Guido Gentili, lo scivolone forse Del Rio, forse forzato dai giornali, bisogna stare attenti, perché lui aveva chiesto che i sottosegretari non parlassero, il suo più fidato ha parlato subito, prego. Beh, certamente è stato un incidente di percorso grave, perché eravamo alla vigilia del discorso dello stesso Renzi al Senato in Parlamento. È grave perché di questi temi, quando si parla di risparmio, vale sempre, diciamo, tenere a mente quello che diceva un grande della nostra storia, Luigi Einaudi, dicendo che i risparmiatori e gli investitori hanno cuore di coniglio, scusate, e gambe da lepre, quindi quando si parla di questi temi. Quindi la prudenza deve essere sempre massima, e in più se ne accorse, diciamo, Prodi in campagna elettorale, come ha ricordato. Esatto, poi non bisogna, diciamo, secondo me, farne, diciamo, di volta in volta una bandiera semplicistica, perché qui il tema è, come poi spiegherà sicuramente Moria Longo, è abbastanza complesso, dipende da come, diciamo, la si prende. Sì, esatto, anche perché gli effetti, Guido, non sono automatici. Esatto, gli effetti sono automatici e dipende da come cominci a calcolarlo questo tema. Io vorrei solo ricordare che già al tempo dell'ultimo governo Berlusconi, con Tremonti e poi con Monti, il risparmio italiano è stato, diciamo, interessato da un forte ritocco da un punto di vista dell'aumento della tassazione, e quindi intanto cominciamo a chiarire questo punto e poi affrontiamo il discorso dove e come si può ritoccare, ma non è un discorso né facile ed è anche abbastanza complicato, voglio dire, quindi per questo bisogna essere molto prudenti. Allora, mi dispiace che alcuni ascoltatori dicono: ah, la borsa oggi è durata troppo poco. Ragazzi, tutto non possiamo fare, la borsa oggi obiettivamente una variazione percentuale dello 0,42% è una scelta. La facciamo più lunga quando ci sono casi di borsa, abbiamo dedicato 10 minuti a Monte dei Paschi di Siena, abbiate pazienza. Comunque, Moria Longo, perché il rischio, al di là di quello che sarà, è che serva a poco e quindi sia un danno politico parlarne e anche un pochissimo risultato dal punto di vista delle finanze. Il motivo è sostanzialmente che le tasse sui titoli di Stato e sui titoli anche obbligazionari di altro tipo le pagano sostanzialmente soltanto i risparmiatori, il pubblico retail che più o meno detiene, restando al titolo di Stato, circa il 10% dei titoli di Stato, quindi una minima parte. Perché le banche, le società, i fondi comuni di investimento sono i cosiddetti lordisti, cioè loro incassano le cedole lorde e poi la tassazione ce l'hanno sul loro bilancio, pagano le tasse sul loro bilancio a seconda di com'è la tassazione, a seconda di che se sono banche, società e così via. Quindi hanno una tassazione che è prestabilita per il loro bilancio, quindi non pagano la tassa sul titolo di Stato quando lo comprano, cosa che invece fanno i piccoli risparmiatori. Il piccolo risparmiatore, quando compra un titolo di Stato oppure un'obbligazione, incassa subito la cedola, cioè il netto, il rendimento netto, non il lordo, perché la tassa viene pagata nel momento in cui l'acquista. Investitori internazionali invece non pagano neppure loro, perché secondo il principio sacrosanto del divieto di doppia imposizione pagano le tasse nel loro paese, per cui se per caso, questo poi dipende da ogni paese, quindi vari trattati. Se tu sei la BNP Paribas, dico, però un caso, tu le paghi in quel caso in Francia a seconda dei vari trattati. In alcuni casi si pagano anche in Italia, però poi si ha il diritto alla restituzione, quindi di fatto il gettito per lo Stato sarebbe soltanto dai piccoli risparmiatori. Quindi se anche, diciamo, concettualmente potrebbe essere condivisibile, visto che le tasse sulle imprese, cioè su chi produce, sono al 65,8% e le tasse sul risparmio e le tasse sulla finanza sono molto più basse. Quindi se concettualmente si può immaginare un ribilanciamento, nell'effetto pratico, stando così le cose, o si rimodella completamente l'imposizione fiscale, si supera il concetto di lordisti e nettisti, oppure per lo Stato cambierebbe poco. E quindi attenzione, perché allora a Del Rio, con tanto affetto al sottosegretario, diciamo, legga Il Sole 24 Ore domani, 4 pagine su questo, perché al di là delle dichiarazioni politiche, poi è importante sapere che se solo il 10%, diciamo, dei bot di BTP è in mano ai privati, il resto è in mano ai lordisti, tu l'effetto economico non ce l'hai, o ce l'hai modesto, ma nel compenso hai fatto magari fuggire dal risparmio, dal bot di BTP, cioè hai creato un po' di tensioni e anche un danno, a mio avviso, nell'opinione pubblica. Altra cosa è ragionare su un altro tipo di tassazione, sulla lotta all'evasione, ma siamo tutti d'accordo, lo dico anche a chi scrive, lei è ancora, che sono supino nei confronti di Renzi, ma no, vi ho già spiegato, andiamo, non si può neanche essere però sempre scettici. Allora, questo paese, così come andava, sta sprofondando, speriamo, io certo che tifo perché Renzi ce la faccia, ma non perché mi piace Renzi l'uomo, perché o facciamo queste riforme di cui parliamo da anni, o qui andiamo col piano inclinato, andiamo a finire a mare, ve lo dico tranquillamente, per cui qualunque italiano dovrebbe tifare per sé, per i suoi figli, verso un governo che faccia queste riforme, molto tranquillamente. Altre ipotesi circolate sulla tassazione invece dei capitali e delle rendite finanziarie? Allora, oggi Renzi ha detto, semi smentendo ma non più di tanto, Del Rio ha detto che la tassazione sulle rendite e sulle imprese sono oggetto di valutazione, quindi non c'è ancora nulla di fatto. Sta di fatto che comunque anche su altri titoli, non solo su titoli di Stato, il discorso dei lordisti e nettisti rimane, per cui il gettito non so quanto sarebbe effettivamente, a meno che non si cambia veramente radicalmente tutta la tassazione, tutto il concetto di tassazione sulle rendite finanziarie. Allora, se è una riforma ad ampio raggio, allora dipende come viene fatta, ma stando così le cose, se semplicemente si alza l'aliquota, ripeto, il gettito sarebbe molto molto molto modesto. Bisogna studiare prima di fare, e bisogna studiare, lo dico con massimo rispetto anche Del Rio, lasciate stare certe dichiarazioni folli che abbiamo visto nel passato, creano panico e non portano a niente. Andiamo sulle cose concrete, sul gettito, dove arriva. Grazie a Moria Longo, grazie a Guido Gentili. Da Sebastiano Barisoni, auguri di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.